Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Anche il nome è stato mitragliato e i fori dei proiettili sul verde dello scafo o sul bianco della scritta sono ora l'ultimo segno di una guerra del pesce che si sta consumando al largo del Mediterraneo. Domenica 12 settembre, nelle acque tra Italia e Libia, il peschereccio Ariete di Mazara del Vallo viene mitragliato da una motovedetta libica. È una di quelle donate da Roma a Tripoli negli accordi bilaterali di contrasto all'immigrazione clandestina. A bordo ci sono anche 6 uomini della Guardia di Finanza. Scoppia un caso politico mentre la procura di Agrigento apre un'inchiesta per tentato omicidio plurimo. Un'inchiesta che parte da una domanda: a che altezza sono stati sparati quei proiettili? È stato un vero agguato, eppure sapevano che eravamo italiani, racconta subito a Radio 24 Gaspare Marrone, il comandante dell'Ariete. Lui che negli anni scorsi ha avuto anche premi dalle Nazioni Unite per aver soccorso i barconi di migranti in difficoltà, non accetta le prime spiegazioni del ministro dell'Interno che dice forse i libici li avevano scambiati per clandestini. Innanzitutto non si può scambiare una nave per un barcone, un motopeschereccio di 36 metri che sta effettuando battute di pesca per un barcone. Dopo, secondo punto, io ho parlato personalmente con il comandante della motovedetta che mi ha chiesto di fermarmi. Io ho chiesto la loro nazionalità, mi hanno detto libica. Ho chiesto se era un italiano perché parlava benissimo l'italiano e gli ho detto che se mi dovevano controllare mi avrebbero controllato insieme a una motovedetta italiana, perché io avevo paura di essere sequestrato e arrestato e portato a terra in Libia. Dopodiché poi considero un'altra cosa molto importante: se era un barcone di clandestini, che fa? Li ammazzavano tutti? Certo. Solo perché erano dei clandestini, che, italiani, perché loro dicono questo. Come italiano, io come italiano personalmente, senza essere un militare, ho salvato la vita a tanti clandestini. Se loro che fanno? Se sono dei clandestini li ammazzano, che fanno? Ma prima di aprire il fuoco abbiamo comunicato sul VHS con il comandante. Mi fa capire questo, cioè a un certo punto vi hanno detto di fermarvi, poi che cosa è successo? Mi hanno detto di fermarmi, io ho detto che ero in acque internazionale e stavo proseguendo la rotta verso Lampedusa, verso l'isola di Lampedusa, e dovevo andare a Lampedusa. Mi hanno detto di fermarmi o avrebbero aperto il fuoco. Dopo 2, 3 minuti, 5 minuti, non so quanto è passato, hanno aperto il fuoco e a quel punto lì sono sceso giù, non potevo stare più in Francia perché sparavano alla stessa d'uomo e quindi sarebbe stato molto pericoloso per me salire di nuovamente là in Francia. E non ho voluto rischiare. La barca stava camminando sola col pilota automatico inserito e loro continuavano a sparare, tutto qua. Ma quindi voi eravate... che era una nave italiana, mi ero identificato come motopeschereccio, come numero di matricola, nazionalità e tutto. Mi avrebbero potuto benissimo controllare anche in presenza di autorità italiane, solo per quello, perché noi conosciamo, abbiamo esperienza del sequestro che fanno loro, come ci trattano, dove ci portano e come si comportano, e io ho avuto paura di andare a finire nei loro carceri. Ecco, ma lei quindi ha sentito, ha capito che c'erano degli italiani a bordo? Sì, io ho capito che era per un italiano perché parlava l'italiano molto meglio di me. Allora ho chiesto se lui era un ufficiale italiano e non mi ha risposto più. Mi ha chiesto semplicemente: qui è la Guardia di Finanza libica, fermate il motopeschereccio. Cioè lui si è presentato come Guardia di Finanza libica? Guardia costiera libica, adesso non mi ricordo, comunque o costiera o guardia di finanza, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo perché c'era un pochettino di tensione, un po' di paura pure per quello, però mi ha detto che erano libici e che se non mi sarei fermato avrebbero aperto il fuoco, ma io ho avuto solamente paura di essere sequestrato e portato a terra, al punto che mi trovavo pure in acque internazionali, credo, e quindi a questo punto non è che ci possono scambiare per un barcone, è differente, e anche se ci scambiano per un barcone non credo che, perché sono dei clandestini, bisogna che aprano il fuoco verso i clandestini. Ecco, signor Marrone, loro però dicono: noi volevamo evitare la pesca di frodo. Voi non stavate pescando? La pesca di frodo? Che cos'è la pesca di frodo? Cioè loro dicono erano in una zona dove loro non potevano pescare. Ma insomma, ci hanno scambiato dei clandestini oppure ci volevano sequestrare perché stavamo pescando in una zona vietata? Ma voi non stavate pescando quindi? No, io mi trovavo in attività di pesca, mi trovavo a 30 miglia dalle loro coste ed ero in acque internazionali. Lei ha parlato direttamente con questa voce italiana o l'ha soltanto sentita? No, direttamente, io ho parlato direttamente con una voce italiana. Quella che le ha detto: fermatevi o spariamo. O spariamo, sì. La Libia si scusa e processa anche il comandante della motovedetta dall'altra parte del mare, mentre l'inchiesta di Agrigento procede tra perizie e interrogatori. Sul porto di Mazara del Vallo monta la rabbia dei pescatori e la paura, perché nei mesi scorsi ci sono stati i casi dei pescherecci sequestrati, Alibut, Mariner 10 e Vincenza Giacalone, e quello di almeno un'altra imbarcazione colpita a mitragliate. È il 27 febbraio 2010 e il Luna Rossa si ritrova, ci racconta il suo comandante, sotto una pioggia di proiettili. Naviga in acque greche Domenico Asaro quando lo raggiungiamo, e anche se sono passati 7 mesi da quel giorno, la sua rabbia oggi è ancora fortissima e affonda ancora più indietro nel tempo, fino ai mesi passati in prigione in Libia, da dove il suo primo peschereccio non ha mai fatto ritorno. Perché noi, si sfoga Asaro, veniamo lasciati soli in mezzo al mare. Eravamo in navigazione in trasferimento per cambiare una zona di pesca e a un certo punto abbiamo avvistato una motovedetta, ci siamo accorti che era una zona libica, si è affiancata a noi e ha iniziato subito a spararci. E questa motovedetta ha cominciato a spararvi, ma prima ci saranno state delle comunicazioni? Noi comunicazione non abbiamo ricevuto, io subito appena ho guardato di poppa che c'era questo mezzo militare a tutta velocità, il fumo che faceva, subito sono sceso giù per avvisare l'equipaggio e dirgli state attenti, mettetevi in sicuro perché c'è una motovedetta, mi sembra che ha brutta intenzione. Quindi poi io non sono entrato più in plancia e magari non ho sentito se loro hanno fatto qualche comunicazione. Però avvicinandosi a noi subito hanno aperto il fuoco, ma a sparare proprio per ucciderci, perché la plancia è diventata un colapasti, all'incirca ci hanno fatto un'ottantina di buchi, strumenti distrutti, vetri sciolti, io ho le foto. Dopo 3 ore di mitragliate di tine hanno deciso di forse buttarci a fondo, non lo so, ci vengono con la prua addosso e ci sperone, no? Il peschereccio faceva rotta nord. E tutto assieme dopo lo sferronamento ci troviamo con la rotta sud, che ha fatto un giro di 180 gradi. Ma la cosa peggiore è che l'Italia, da 6 ore non si è visto nemmeno un mezzo italiano, perché noi siamo carne da macello, pescatori siciliani, per lo Stato italiano non contiamo, non siamo italiani noi. Non è una cosa umana che un peschereccio, con tutti gli allarmi che ha dato, con tutte le richieste di e c'era questa motovedetta che ci metteriamo, altri dei nostri colleghi hanno dato l'allarme dappertutto, in 6 ore non si è visto neanche un mezzo italiano per darci soccorso. A noi ci ha scortato un altro motopesca, perché noi non eravamo in grado più di navigare tramite gli strumenti tutti rotti. Comandante, ci faccia capire una cosa, cioè quando voi a un certo punto vi siete ritrovati sotto il fuoco della motovedetta libica, avete dato un allarme a chi? All'altro peschereccio abbiamo dato l'allarme di chiamare, Compamare Mazara sapeva tutto, perché poi io non ho dato più, ho fatto scattare l'allarme al Blue Box e poi non sono potuto più entrare in plancia, perché con tutto quel fuoco che c'era, con tutte le mitragliatrici che sparavano, io non ero più in grado di poter entrare in plancia. Cioè, quindi lei non poteva più raggiungere i comandi per poter comunicare con la capitaneria? No. Quindi alla capitaneria di Porto di Mazara non è arrivata la vostra richiesta di SOS? È arrivata tramite altri pescherecci, perché dopo circa 2 ore così che loro sparavano, mi sono messo a camminare piano piano per andare a vedere in plancia se com'era successo, perché io mi spaventavo che la plancia prendeva fuoco. Sono andato lì sopra per vedere com'era la situazione, c'era tutto rotto, siccome io poi avevo dato l'allarme tramite il telefono satellitare, quindi Compamare Mazara sapeva tutto, tutti sapevano tutto, anche Roma sapeva tutto. Che vuol dire? Roma chi? Chi li ha avvisati? Il comando delle capitanerie generali lo sapeva, perché l'armatore a Mazara sapeva la notizia che noi eravamo sotto le mitragliatrici della motovedetta libica e hanno avvisato tutti. Nessuno è venuto incontro a noi, nessuno, come se fossimo degli animali, come delle bestie peste in mezzo al mare, nessuno ci ha aiutati. Io per cui ho tanta rabbia verso il governo italiano, perché noi pescatori per il governo italiano non esistiamo. Siamo proprio, non è questa una vicenda solo che succedono ora. A me nel 96 mi hanno confiscato un peschereccio libico. Io sono rimasto 6 mesi in galera in Libia. Il governo italiano a mio padre gli ha detto: signora, se tenga la pensione. Queste sono state le parole che ha detto il governo italiano. Storielle. Storiacce. Hanno sparato per ucciderci. Io non mi sono fermato perché avevo paura di essere sequestrato e portato in Libia. Nella prima parte di Storiacce, Gaspare Marrone, il comandante del peschereccio Ariete, colpito a mitragliate dai libici, ha ricostruito quella giornata di domenica 12 settembre e ha ammesso la sua paura di finire in Libia, perché così è successo ad altri pescatori di Mazara del Vallo come lui, altri come Domenico Asaro, il comandante del Luna Rossa, che ha conosciuto le prigioni libiche come gli spari delle loro motovedette. La ragione: la guerra del pesce tra Italia e Libia. Tripoli ha allargato unilateralmente le proprie acque territoriali, ma noi pescatori riconosciamo solo la legge del 74, rivendica il comandante del Luna Rossa, che sfoga la sua rabbia contro uno Stato che, dice, non ci difende. Ma perché, secondo lei, a marzo, quando siete stati colpiti dalla motovedetta libica, vi hanno sparato contro? Vi accusavano di pescare illecitamente? No, per me le leggi internazionali sono 12 miglia dalla costa. Le leggi internazionali firmate nel 1972-74, che so io, sono 12 miglia dalla costa. Noi eravamo 35 miglia dalle coste libiche, in trasferimento. Purtroppo le nostre motovedette, il nostro governo, non fa quello che dovrebbe fare con gli italiani, perché in fin dei conti noi non facciamo niente di male, anzi siamo stati di aiuto al governo italiano, perché segnaliamo l'imbarcazione di clandestini, facendo salvare delle vite umane e umane in mare, andando contro i nostri interessi, perché qualcuno ha subito pure brutta notizia pur salvando delle persone umane. Che vuol dire ha subito qualche brutta notizia salvando persone umane? C'è stato qualche comandante che l'avevano denunziato perché tu non lo dovevi fare, dovevi chiamare l'autorità. Ma come, se io vedo qua un'imbarcazione con dei clandestini che hanno bisogno d'aiuto, li vado sotto ad aiutarli, eppure è stato quasi condannato. Ma quindi voi, quando vi hanno sparato, eravate in transito, non stavate neanche pescando? No, stavamo pescando, eravamo in transito, sì, perfettamente. E non c'è stata, prima dei colpi, una richiesta, prima, cioè dei segnali precedenti che vi hanno detto: fermatevi, fatevi controllare? Niente. Succede sempre così: arrivano e iniziano a sparare all'impicchiata. Noi siamo tutti terrorizzati in mezzo al mare, perché sappiamo quello che succede. Perché sempre ripeto a dire, io, a me nel 96 mi hanno confiscato un peschereccio. Perché le hanno confiscato il peschereccio? Una motovedetta libica mi ha catturato dicendomi che ero nelle acque libiche, invece io ero nelle acque internazionali. Mi hanno portato in porto per un controllo. Mi hanno portato in porto e mi hanno fatto fare 6 mesi di carcere e mi hanno confiscato il peschereccio. Mio padre è morto per la pena del peschereccio, perché i pescherecci per noi sono come figli. Noi, per noi è il posto di lavoro, per noi è tutto un peschereccio. Quindi vi hanno portato in Libia? A Misurata, il peschereccio è morto a Misurata, il peschereccio si chiamava Osiride. Il peschereccio è stato confiscato, il governo italiano non ha mosso un dito. C'è stato una forma di processo? C'è stata qualcosa? C'è stato un processo, ci avevano processato a 2 anni di carcere. Dopo 6 mesi ci hanno dato la grazia per la buona condotta e tutto. Dopo 6 mesi ci hanno lasciati, ma il peschereccio è stato confiscato. Ma la cosa peggiore è che il governo italiano non ha mosso un dito. Io non lo so se noi forse dobbiamo alzare la bandiera americana, perché non conviene più alzare la bandiera italiana. Arrivato a questo punto, essere italiano non vale più la pena. In che modo il vostro caso era arrivato anche al governo? Cioè la capitaneria, gli armatori avevano interessato chi del governo? Sì, sono andati a Roma, mio padre che era l'armatore, hanno parlato con questi signori di là, non hanno mosso un dito, hanno detto: signor Asaro, si tenga la pensione e se ne vada a casa. Queste sono state le parole che è stato detto a mio padre. E mio padre il peschereccio l'aveva costruito lui con i suoi sudori nel 1974. Quando io sono ritornato dalla Libia dopo 6 mesi di carcere, mio padre col malincuore mi ha detto: ma perché non mi davano il peschereccio e si tenevano a te? Per fargli capire quanto valeva quel peschereccio per mio padre. Sono tutta la nostra vita, il nostro lavoro quotidiano. Certo, lo capisco. Signor Asaro, e questi 6 mesi in carcere in Libia come sono andati? Dura, le famiglie in frantumo, non le auguro neanche un cane stare nei carceri libici, raccontare i 6 mesi che abbiamo passato là, altrimenti siamo sopravvissuti, perché la gioventù ancora più giovane, io davo forza a tutto l'equipaggio, dire state tranquilli, non preoccupate, dare coraggio, però a casa le famiglie tutte distrutte, senza poter parlare a casa. Dopo 2 mesi si vedeva un console che veniva da Tripoli, ci veniva là a misurare a dirci come state, sì, tutto bene, se ne andava e finiva là. 6 mesi di prigione, lo sento dire Berlusconi, ha fatto i contratti bilaterali, amici con la Libia, con Gheddafi, quando mai? Se poi il governo italiano ha i suoi progetti, che vuole gas, che vuole petrolio, se stanno uccidendo il Mediterraneo, perché il Mediterraneo è il mare più pescoso del mondo. Ora con tutte queste piattaforme, con tutto questo gas, con tutto questo petrolio, con tutto questo cosa che buttano in mare, io sto pescando per adesso a Cipro, in Egitto, in Israele, mi sono allontanato di quelle zone, anche perché i pesci stanno morendo. Appunto, questo volevo chiederle. Ecco, perché quella zona che è più verso la Libia è una zona che per voi pescatori è importante? È una zona particolarmente pescosa? È più pescosa perché giustamente pescherecci loro non ne hanno, ci vogliono pescherecci più di altura. Noi adesso lavoriamo a profondità di 700 metri, 800 metri. Noi facciamo la pesca a gambero rosso. Il gambero rosso è un tipo di gambero molto pulito, molto selezionato. Da quando sono stati firmati anche i trattati di amicizia tra Italia e Libia, per voi pescatori le cose sono migliorate, peggiorate, rimaste uguali? Peggiorate al 100%, perché il governo italiano ci dice che noi ci dobbiamo allargare dalle coste della Libia 74 miglia, perché hanno fatto una convenzione. Noi non la riconosciamo, i pescatori non la riconosciamo. Per noi la legge è Ginevra 1972, 12 miglia dalle coste libiche. Il governo italiano dice che noi ci dobbiamo lavorare dopo i 74 miglia. Non esiste, perché a 74 miglia non c'è da pescare. Di questa vicenda del suo collega della Ariete, del signor Marrone, mi viene da piangere, perché rivivo la mia avventura che ho passato io a febbraio, che non lo auguro a nessuno, no? Neanche al peggior nemico che uno ha sulla terra, non si augura a nessuno, perché in mezzo a mare subire queste cose, io gli dico che non lo so, è la forza, perché voglio fare il pescatore, perché sta vita mi piace, l'amo tanto, ma sono in mare, tremano le gambe, ogni tanto mi fermo, tipo che sento sempre un rumore nell'orecchio, le mitragliatrici. Dopo i fatti di marzo, quando la vostra barca, il vostro peschereccio, il Luna Rossa, è stato colpito dalle mitragliatrici della motovedetta libica, che cosa è successo? Ecco, quel peschereccio è stato in qualche modo rimesso a posto? Avete avuto dei risarcimenti? È rientrato in porto a Mazara. La capitaneria di Mazara del Vallo ce l'ha messo, diciamo, in banchina, che non lo potevamo toccare. Sono stati visitati tutti i buchi, hanno fatto controlli, hanno fatto la perizia, perché noi avevamo un danno di 70-80 mila euro, a parte l'equipaggio che siamo stati 50 giorni senza lavorare. Dopo tutte le perizie che hanno fatto, tutti gli accertamenti che hanno fatto, ci hanno liberato il peschereccio e detto ora potete aggiustarlo. E noi ci siamo messi di santa pazienza ad aggiustare il peschereccio, vetri rotti, lamiere bucate, la plancia tutta bucata, strumenti rotti. Quanti danni avete avuto? Come li avete quantificati? I danni materiali, diciamo che abbiamo speso circa 50-60 mila euro, ma poi siamo stati 40-50 giorni fermi, non si possono quantificare i danni. A bordo di quella motovedetta non c'erano italiani? Non lo so, io non è che potevo vedere se c'erano italiani oppure no, ma sicuramente erano le motovedette che ha dato il governo italiano per sparare a noi stessi. L'assessore alla pesca regionale Titti Bufaldici, quando ha visto il motopesca, si è messo le mani nei capelli. Come hai fatto tu a ritornare vivo a casa? Avete avuto paura di morire? Tanta paura, certo che abbiamo avuto paura di morire, ma anche attualmente adesso quando andiamo in pesca siamo terrorizzati. Non stiamo lavorando più con la tranquillità che avevamo prima di succedere questo fatto, perché ognuno di noi è terrorizzato. Per difendere i pescatori ci vogliono i mezzi militari messi là davanti alla Libia, però battiamo tutte bandiere americane e facciamo venire l'americano, perché l'americano, nel senso del patriottismo, ce l'hanno, noi italiani non ce l'abbiamo ancora. Questa puntata di Storiacce, come tutte le altre, la ritrovate sul sito di Radio 24, mentre non dimenticate che vi aspetto sempre sul blog di Storiacce, radio24.ilsole24ore.com/blog/calandra. Ciao, scrivetemi, a sabato!